e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dell'approvazione da parte del governo del decreto legislativo sui tabacchi che recepisce la direttiva del Parlamento europeo, torniamo a parlare di fumo per capire meglio le nuove disposizioni legislative relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei tabacchi e dei prodotti correlati. Pronti in linea con noi abbiamo il dottor Roberto Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. È pronto? Scaldi i motori, eh? Sì, vado carico. 800 24 00 24 per tutte le vostre domande, se siete fumatori, se svapate, se siete esposti al fumo passivo, se a fumare è vostro figlio che non ne vuole sapere di smettere ed è assolutamente insensibile ai messaggi di prevenzione, lanciate il vostro SOS, chiamateci, ma usate anche il nostro numero verde per dirci cosa ne pensate dei nuovi divieti, li valutate efficaci, li considerate eccessivi, inutili, insomma, se vi fosse data carta bianca, quali divieti avreste scritto, quali avreste eliminato? 800 24 00 24, noi vi aspettiamo. Io invece mi occupo, possiamo così dire, della seconda notizia più importante che oggi campeggia sui giornali, perché anche questa sul fumo naturalmente occupa uno spazio rilevante. Ieri ne abbiamo parlato anche con il ministro Lorenzin. Per la pagina di denari oggi parliamo di questa novità in arrivo dal governo, annunciata proprio ieri dal presidente del Consiglio in persona in un'intervista in una radio concorrente. Poi insomma questa notizia in realtà è stata notevolmente approfondita anche da molte altre trasmissioni. Cosa ha fatto Matteo Renzi? Ha proposto di tornare ad alzare, con appunto la manovra di stabilità in arrivo, la soglia massima per l'uso del contante. Sapete che oggi da 1000 euro in su le transazioni cash non sono consentite. Questo limite salirebbe a 3000 euro. Noi oggi torniamo a parlarne commentando questa proposta, ma tornando anche a ricordare quali sono le regole attualmente in vigore e cosa rischia chi sbaglia, chi fa una transazione non secondo queste regole. 800 24 00 24 è il numero verde anche per permettervi di raccontarci qual è il vostro rapporto con il contante. Sappiamo che è il metodo preferito degli italiani per pagare ogni tipo di transazione. L'uso della moneta elettronica ancora in Italia c'è ancora un po' di resistenza. Vi trovate in situazioni particolari a dover gestire molti contanti? Vi è venuto il dubbio che la vostra situazione non sia in regola? Condividete allora questi dubbi con noi, ne parleremo con i nostri esperti. In Italia è tra i primi in Europa, noi applichiamo la direttiva e recepiamo l'aspetto diciamo principale, che è quello delle immagini forti sui pacchetti di sigarette, che saranno delle immagini molto violente, cioè che è molto esplicite rispetto ai danni da fumo, ma soprattutto attiviamo una campagna molto intensa e molto grande contro l'utilizzo delle sigarette, la vendita delle sigarette nei confronti dei minori, perché è uno dei problemi più grandi. Ecco, proprio ieri il ministro Lorenzin è tornato a trovarci e così ha commentato il decreto legislativo approvato dal governo per inasprire le regole riguardanti il commercio dei prodotti a base di nicotina, che tra l'altro aveva già anticipato, ti ricordi Deborah, in una precedente puntata di Cuore Denari. Insomma, ci allineiamo alla direttiva europea. Tra l'altro ho letto che anche in Inghilterra dal 1 ottobre è vietato fumare in macchina in presenza di minori e la sanzione mi sembra che sia 50 sterline, mentre lo ricordiamo da noi il decreto entrerà in vigore da Natale, ma noi ne parliamo sin d'ora. Allora vogliamo anche invitarvi a esprimere un parere sui divieti contenuti nel decreto. Voi che ne pensate? Fateci sentire la vostra opinione. Se foste il ministro per un giorno, che cosa fareste? Diteci quali sono i divieti che approvate, quali ritenete utili, inutili, non adeguati, eccessivi e quali invece nel caso vorreste aggiungere. Dottor Boffi, in linea con noi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Ora la salutiamo bene, benvenuto e grazie dottor Boffi. Grazie ancora dell'invito. Lei è di casa, no? L'abbiamo soprannominato dottor Fumo perché lei è di casa a Cuore Denari e dei danni del fumo, dell'importanza di smettere, non ci stanchiamo mai di parlare. D'altronde è sempre un investimento e paga sempre. A proposito, è vero che dopo il quarto tentativo di solito ce la si fa? Bisogna insistere, dottor Boffi, senza lasciarsi demoralizzare dagli insuccessi? Beh, assolutamente sì. Non a caso viene definito il tabagismo una patologia recidivante, proprio per sottolineare questo aspetto cronico e un po' a picchi e a volte a ricadute. In Italia sono, parlavamo dell'Inghilterra, no? In Italia i fumatori purtroppo sono quasi il doppio degli ex fumatori, e questo dimostra che ancora molto si dovrebbe fare, secondo me, per aiutarli, oltre che inasprire la legge antifumo e garantire la certezza delle sanzioni, come avete detto giustamente voi. Sta di fatto comunque che il 70% dei fumatori, dati recenti ancora dell'Istituto Superiore in Età lo ricordano, tenta continuamente nell'arco di un anno di smettere di fumare. Addirittura sono stati calcolati circa 124 milioni di fallimenti all'anno in Italia, quindi persone che smettono solo per qualche giorno o al limite pochi mesi, che comunque è già un fattore, perché comunque è una dimostrazione, certo, a se stessi che ce la si può fare. Ogni volta poi bisogna cercare di arricchirsi del tentativo, anche magari fallimentare, precedente, e farne tesoro. E quindi il quarto tentativo, se ogni tentativo viene considerato che si aumenta la percentuale circa il 25%, al quarto tentativo si arriva al 100% delle nostre potenzialità, e lì bisogna veramente impegnarsi per fare in modo che sia la volta buona e smettere definitivamente. E noi, parla oggi, parla domani, stanno già arrivando tra l'altro tantissimi messaggi. No, ma c'è una batteria impressionante adesso, dottor Boffi. Tanti ringraziamenti personali, grazie, a lui, peraltro, questo l'ha detto, perché grazie, ci sono molte persone che le riconoscono di aver smesso di fumare dopo aver ascoltato i suoi interventi a Radio 24, per cui lei è un'eminenza grigia che solamente a parlare no, da qua già no, fa effetto. No, poi magari è nero azzurra, è interessante. Quello sì. Comunque, parla oggi, parla domani, possiamo dire che non solo siamo sull'attualità, ma abbiamo anche fatto tendenza, tanto che proprio ieri l'hashtag fumo era tra le tendenze di Twitter. Direi che possiamo essere soddisfatti, perché anche noi diamo il nostro contributo, e ringraziamenti di molti ascoltatori che l'hanno sentito proprio a Radio 24, molti di questi saranno venuti anche a trovarle al centro antifumo. Ecco, non c'è solamente quello del dottor Boffi, mi raccomando. No, ma sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ho una signora che ha smesso di fumare con noi, che è venuta dalla Liguria. Questo non significa naturalmente che non ci siano degli ottimi centri antifumo in Liguria, è la forza, la credibilità, l'autorevolezza che ha Radio 24. Beh, ci sprechiamo reciprocamente sui complimenti. È vero. Allora, diteci anche voi se avete smesso, come avete fatto, raccontateci la vostra storia di fumatore o di ex fumatore. Intanto Deborah seleziona alcuni messaggi da leggere. Chiamateci se svapate, chiamateci anche se avete un figlio o una figlia che fuma e che non sente ragioni. 800 24 00 24. Dottor Boffi, oggi vogliamo invitare i nostri ascoltatori a esprimere la loro opinione sui divieti, no? Che daranno sicuramente una stretta, un giro di vite. Oggi li commenteremo con lei e accoglieremo naturalmente anche le proposte desiderate, i commenti dei nostri ascoltatori, che possono naturalmente rivolgersi a lei anche per trovare una risposta, un dubbio, avere un'indicazione. Tra i divieti che sono stati più ripresi anche dai media sono sicuramente il divieto di fumo in auto con minori e donne in gravidanza, le immagini shock sui pacchetti di sigarette, il divieto di vendita delle confezioni da 10 che hanno un prezzo troppo invitante per i ragazzi, ma le misure, lo sappiamo, riguardano anche le sigarette elettroniche, contenitori di liquidi di ricarica con presenza di nicotina e i prodotti di nuove generazioni che non potranno essere venduti ai minori di 18 anni, pena delle sanzioni sempre più severe. Senza dimenticare che da Natale sarà vietato anche nelle pertinenze esterne il fumo degli ospedali, degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, di pediatria, ginecologia, ostetricia e neonatologia. Dottor Boffi, finalmente anche le aree fuori dagli ospedali saranno libere dal fumo. Beh sì, lei come sa, abbiamo avuto più volte modo di parlarne, noi sul fumo passivo battiamo da più di 10 anni con i nostri studi di ricerca, quindi sono adeguamenti legislativi che a noi fanno molto piacere. Voi avete prodotto anche dei dati, sì, che avvalorano la tesi del ministro. Abbiamo molto pubblicato anche a convegni internazionali, presentato i nostri risultati, ad esempio sul fumo in macchina abbiamo pubblicato due articoli importanti su epidemiologia e prevenzione, in cui dimostravamo che nell'abitacolo di un'auto dove si fuma, anche con aria condizionata accesa, si raggiungono 30 volte concentrazioni più elevate di polveri sottili, il famigerato PM10, rispetto all'aria che c'è fuori. Quindi chiaramente i bambini e le donne incinte, ma aggiungerei anche le persone asmatiche, le persone malate di cuore, gli anziani, per non parlare dei pazienti oncologici, dovrebbero assolutamente essere non esposti a questi agenti che sono irritanti, pro-infiammatori, liberano radicali liberi, quindi deprimono anche il nostro sistema immunitario. Queste categorie cosiddette sensibili sono maggiormente quindi portate ad ammalarsi, avere bronchiti, tracheiti, sinusite, fino anche a malattie più gravi. Dottor Bofi, lo sappiamo bene, lei è tante volte tornato qua a Cuore Denari per raccontarci anche i dati delle ricerche che sottolineano i danni del fumo passivo. Sì. Per i bambini il rischio è ancora molto più alto. Ho letto che corrono un rischio di infezione 4 volte superiore al normale, si indebolisce il loro sistema immunitario, così diventano più comuni raffreddori, bronchiti, tonsilliti, tracheiti, otiti, sì, e aumenta anche la probabilità di attacchi d'asma. Assolutamente sì. Noi ad esempio parlavate anche dei cortili, no? Sì. Noi all'Istituto dei Tumori. Senta, dottor Bofi, già che lei è di casa, si fermi qua, perché noi, a proposito di cortili, dobbiamo uscire dal cortile per andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Poi telefonate dei nostri ascoltatori, sì, diventate ministro per un giorno, commentate i divieti, naturalmente aggiungete anche i vostri desiderata, i vostri dubbi, le vostre domande e le vostre esperienze. A tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. Voglia di fumare un'altra sigaretta mentre mi domando dove. E noi torniamo a parlare del divieto, dei divieti antifumo, ne parliamo col dottor Bofi, un'occasione per tornare a parlare di un tema di grande attualità. Spegnere conviene sempre, smettere conviene a tutte le età, è un investimento che paga. Anche dopo i 60 anni, oltre a ridurre il rischio del tumore al polmone, si riduce anche il rischio delle malattie cardiovascolari. Dottor Bofi, è corretto? Assolutamente sì, sia quindi il fumo attivo che il fumo passivo determinano danni rapidi a breve termine, ma la loro reversibilità, quindi il miglioramento dalla cessazione del fumo e dall'esposizione al fumo passivo, ha delle cose che migliorano subito, ad esempio la frequenza del cuore già migliora, si abbassa già dopo poche ore che non fumiamo, non siamo più esposti al fumo passivo, ed altre cose tipo il rischio oncologico, la bronchite cronica ostruttiva, l'enfisema, quelle ci vogliono più mesi o anche anni per essere totalmente eliminate. Allora parlavamo dei cortili, delle zone degli ospedali. Voi avete presentato al congresso europeo di Barcellona, proprio per la rete degli ospedali per la salute, dei dati in cui dimostrano l'alta concentrazione, no, di polveri sottili. Sì, abbiamo dimostrato che nel cortile, che tra l'altro è quello che porta l'ambulatorio nostro della pediatria, parlavate giusto della pediatria, dove quindi ci sono i bambini che vanno magari, che devono fare i controlli per le chemioterapie, così lì sotto c'erano il triplo di concentrazioni di polveri sottili rispetto all'esterno, e se si valutava il black carbon, che è un marcatore di tossicità, di capacità di formare radicali liberi, stress ossidativo avuto al fumo passivo, lì era addirittura 10 volte tanto. Con il divieto che abbiamo introdotto per merito della nostra direzione generale 2 anni prima, abbiamo dimostrato i dati che abbiamo presentato l'anno scorso a Barcellona, che c'era un netto miglioramento dell'aria sotto questi patios, dove quindi secondo noi dovrebbe essere assolutamente vietato fumare. Quindi questa legge secondo noi non è altro che un adeguamento legislativo sacrosanto alle scoperte scientifiche, perché i nuovi strumenti anche di monitoraggio dell'inquinamento lo raccontano chiaramente. Prima, esatto, non si potevano vedere. E molti ascoltatori, Deborah sta scorrendo gli sms, invitano ad ampliare queste aree libere dal fumo, soprattutto. Sai cosa mi veniva in mente? Presente quando scendi dal treno e hai la barriera del fumo proprio di fronte a te, no? Che non riesci veramente a bypassarla, che è difficilissimo perché comunque incontri davanti a te la persona che ha avuto tutta quella fretta di uscire perché doveva accendersi la sigaretta. Questa è un'immagine che mi è scattata in mente. Allora, io voglio, oltre ai messaggi, leggere anche la richiesta di aiuto di Sergio, che ci chiama da Milano. Vorrei smettere di fumare, capisco di aver bisogno di aiuto, a chi potrei rivolgermi? Milano? Milano. Noi, ma ci sono più di così. Non voglio ecco, non può, non, può anche scegliere di non andare, non c'è solamente il centro antifumo dell'Istituto Nazionale dei Tumori, noi abbiamo il dottor Boffi, ma ci sono in tutti gli ospedali, hanno un centro antifumo, c'è poi un elenco che noi mettiamo sulla pagina del, di Cuore Denari. Dottor Boffi, però dia le istruzioni per farsi seguire, poi c'è sempre la polemica che i farmaci, no, per smettere di fumare sono pagati e non so, però insomma, allora, passetto per passetto ci arriveremo. Nicoletta, è un c'è un dato agghiacciante, cioè secondo me, cioè che il, di quelli che smettono di fumare, che sono, come dicevo prima, poco più della metà dei fumatori che sono in Italia, meno dell'1% lo fa con i centri antifumo. Questo dimostra due cose, secondo me. Primo, che si potrebbe fare di più per aiutare i centri antifumo a, a sostenere i fumatori a smettere di fumare, almeno quelli accaniti, quelli che da soli non ce la fanno. E secondo, che però è, sarebbe anche ridicolo, secondo me, pensare di poter risolvere un'epidemia come quella del fumo, che viene definita ormai pediatrica, perché si fuma sempre prima, poi parleremo magari anche delle sigarette elettroniche, dell'iniziazione al fumo con le sigarette elettroniche, pensare di risolvere questo problema solo con 300, con 350 centri antifumo che ci sono in Italia. Quindi tutti insieme. Cosa deve fare però, Sergio? Così passiamo a Pietro dall'Aquila, a Carmine da Salerno, perché stanno aspettando di parlare con lei. Beh, alcuni farmaci sono da banco, ad esempio la terapia nicotinica, le gomme, le caramelle, i cerotti possono essere assunti anche senza ricetta medica, magari facendosi guidare e consigliare dal medico di famiglia o, perché no, anche dal proprio farmacista, se si ha fiducia in lui. E se no, ci si può rivolgere ai centri antifumo, però l'85% dei fumatori smette da solo senza farmaci, questo va anche detto, cioè non tutti i fumatori hanno bisogno di una terapia nicotinica per 2-3 mesi. Se non ce la si fa da soli, con i libri, con i consigli che ci sono anche su internet, con Radio 24, con i forum che ci sono anche online, alcuni veramente belli e utili, fatti anche dagli stessi ex fumatori, allora bisogna rivolgersi al proprio medico o al medico del centro antifumo. Allora, Paolo, grazie a voi, domani compio 7 anni senza fumo. Paolo, Paolo, vogliamo raggiungerlo e naturalmente regalargli un libro subito di Cuore Denari. Così come ci piace anche il messaggio di Matteo, che diceva: se serve una legge per obbligare una persona a non fumare in presenza di un bambino, viviamo in un paese che è messo male, non possiamo che... Io direi che questo è... Racconta è un messaggio tutto di buon senso. Andiamo, assolutamente condivisibile. Andiamo all'Aquila. C'è Pietro. Buongiorno Pietro, rapidamente prima del GR, così il dottor Boffi le dà un'indicazione. Grazie per aver chiamato. Grazie a voi, buongiorno. Ho 54 anni, da 38 anni fumo regolarmente 4 sigarette al giorno. Per abitudine le fumo sempre fuori, fuori casa oppure fuori dalla macchina, quindi non in ambienti chiusi. Volevo sapere se i rischi che si corrono in questo caso sono sopportabili, insomma, o comunque... Pietro, lei lo so che ci si vuole far del male. Voglio farmi consolare. No, perché uno dice: dai, 4 sono poche, speriamo che mi dica di sì. Però mi sa che il dottor Boffi è proprio un po'. Dottor Boffi, estremista. Abbiamo un minutino, ma torniamo con Pietro. No, lo sa tanto quello che devo dire, cioè che quello che fa male la sigaretta è l'uso, non l'abuso. 4 sigarette al giorno fanno male, è chiaro che fanno meno male di 40, però quello che mi preoccupa un po' del suo ascoltatore, anche se devo dire che è l'eccezione che conferma la regola, cioè riesce negli ultimi 30 anni non ha mai aumentato. Ma c'è anche il fumo di terza mano, ne parliamo dopo. Il segnale orario vi è offerto da logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questo? Ma no, ce l'ha con no, te, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due, che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due e Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. State ascoltando un programma offerto da... Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Cuore e denari. Bentornati nella seconda parte di Cuore Denari. All'indomani dell'approvazione da parte del governo del decreto legislativo sui tabacchi, torniamo a parlare di fumo. Smettiamo, proviamoci a smettere di fumare, ci conviene sempre. Se fumate, se svapate, se avete smesso, se ci siete ricascati, 800 24 0024. In linea con noi abbiamo il nostro dottor Boffi, il nostro dottor antifumo. Dottor Boffi, allora, il nostro ascoltatore che chiedeva se 4 sigarette possono in qualche modo, no, provocare un danno alla sua salute, lei ha già risposto, meglio 4 che 40. Questo sì. Ecco. Però stavo dicendo che mi preoccupa il fatto che le stia fumando da più di 30 anni. È stato bravo a non esagerare in questi 30 anni, però quello che fa molto male del fumo è la durata dell'esposizione, perché non fai mai riposare, tra virgolette, le cellule. Quindi fa più male, paradossalmente, fumare a parità di numero di sigarette accese 10 sigarette al giorno per 40 anni che 40 sigarette al giorno per 10 anni, perché è fumare per così tanti anni che rischia più facilmente di provocare infiammazione, bronchiti, enfisema o anche tumori. Allora, naturalmente un nostro ascoltatore, che adesso mi sono persa negli sms, mi sembra Mario, sì, si lamentava con un sms perché si sentiva criminalizzato. Non siamo criminali se siamo fumatori, assolutamente, il fumo è una dipendenza, non, nessuno pensa di criminalizzare il fumatore, assolutamente. No, dice, però quando naturalmente, lo subiscono un po' gli altri, magari. Ecco, però dice, io insomma saranno fatti miei, in un altro messaggio ci scrive: naturalmente non fumerei mai davanti ad una donna incinta o ad un bambino. Dottor Boffi, ho accennato, ma vorrei da lei un commento rapido, perché vorrei dare voce ai nostri ascoltatori, ma è un aspetto che vorrei sottolineare. C'è un fumo, il fumo attivo, cioè il fumatore si fuma la sua sigaretta e si cucca i suoi danni, va bene. Poi c'è il fumo passivo, che è quello che no, subisce la persona che vive accanto al fumatore o respira esatto, accanto a lui. Fumo secondario. E c'è, ok. E poi c'è un altro fumo, il fumo di terza mano, che è quello, esatto, che le ricerche ci dicono che insomma è dannoso quanto quello di seconda mano. Ci vuole, è quello praticamente residuo che rimane dentro l'abitacolo della nostra macchina, esatto. Quindi quando noi diciamo non portiamo il bambino, non fumiamo in macchina col bambino, non dovremmo fumare nella macchina dove poi trasporteremo il nostro figlio, perché il fumo, lo sappiamo bene, basta entrare in una macchina, no, dove abbiamo fumato, rimane impregnato nella tappezzeria, puzza, ecco, quindi questo lo sa, ecco, quella puzza è un po' quello che ci dà l'idea del fumo di terza mano, che è presente anche nelle nostre case. Certo, certo, perché il fumo secondario, quello, il fumo passivo, quello ad esempio in camera da letto, no, del fumatore, dura qualche ora, perché si dimezza in non meno di 2 ore, per dire. Però con la finestra aperta, così poi un po' se ne va. Però quello che rimane, ed è pressoché ineliminabile, questo è drammatico, è il cosiddetto fumo terziario, che è non solo avvolgente ma anche infiltrante i tappeti, le tende, i divani, e questo contiene sostanze che è cancerogene, come gli IPA, gli idrocarburi policiclici aromatici, e quindi l'unica cosa da fare è buttare via la casa. Poi, non si può buttare, no, bisogna non fumare il divano, i tappeti, poi dove tra l'altro i bambini giocano, i cani, gli animali domestici. Per cui questo, insomma, questo, ecco, questo non c'è solamente il fumo, no, del fumatore, ma il fumo cammina, come si dice. Dottor Boffi, abbiamo Cecilia della provincia di Lucca, Carmine e Luisa. Facciamo un'infornata, come si dice, dei nostri ascoltatori e poi parliamo di questo test che è stato proprio messo a punto dall'unità di genetica dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Cecilia, buongiorno. Io vorrei porre questo problema, ovvero, a me piace tanto andare al mare perché mi piace il mare, eccetera, però io ho già fatto il giro di tutti gli ombrelloni perché c'è sempre qualcuno che fuma e il vento del mare e lo porta. Quindi al grado. La proposta di Cecilia dalla provincia di Lucca, almeno che in Versilia sia eliminato il fumo nelle spiagge. Spiagge libere dal fumo, Cecilia, posso riassumere così il suo invito? Sì. Grazie. Carmine dalla provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno, io avrei una piccola soluzione. Sì. Piuttosto che mettere divieti, imposizioni, foto sui pacchetti, tutti quelli che contraggono purtroppo malattie legate al fumo, quindi appurato che la malattia è legata al fumo, si paghino le spese da soli, non gravando su chi ha deciso di non fumare, quindi non gravando su tanti italiani. Il deterrente economico è molto gettonato stamattina, perché c'è anche chi propone, naturalmente inutile, che modificate le foto, le scritte sui pacchetti di sigarette, metteteli a 15 euro appunto. Oppure molti dicono perché lo Stato vende le sigarette quando poi deve spendere soldi per fare le campagne. Dibattito veramente caldo. Allora, dite anche un'altra cosa: oltre al fumo, il comportamento che i fumatori hanno, mediamente irrispettosi degli altri, mozziconi e pacchetti a terra, sì, dove gli pare, soprattutto laddove ci sono ristoranti all'aperto, si sentono liberi di ogni comportamento. Naturalmente la nostra discussione può continuare sulle nostre pagine Facebook, magari il dottor Boffi gentilmente fa un saltino a fare qualche commento. Dottor Boffi, abbiamo un minuto per due cose velocissime. Il test. Il nostro studio ha dimostrato che in spiaggia, vicino a un fumatore a 5 metri dalla sigaretta, si raggiungono 7 volte più concentrazioni elevate rispetto a sopravento, rispetto a sottovento, o anche nel centro città. Lo abbiamo fatto a Vada, quindi a Livorno, in Toscana, da dove ha telefonato la vostra radioascoltatrice, e la spiaggia di Bibione, che è una delle spiagge più grandi d'Italia, in questi anni ha fatto una politica antifumo e ha guadagnato turismo, non l'ha perso. La seconda risposta, per quanto riguarda i costi, l'impatto economico è enorme. Viene calcolato più di 7 miliardi all'anno la spesa in Italia per il fumo, i costi di fumo. Sono soldi che vanno in fumo. È vero che lo Stato non vende ma guadagna con le accise sulle tasse delle sigarette, ma sono tutti soldi che vanno alle multinazionali del tabacco, perché lo Stato poi li spende come Ministero della Sanità per curare i fumatori. E infatti Giusy ci scrive: il fumatore non può dire sono affari miei, il servizio sanitario lo paghiamo tutto, anche i non fumatori. Messaggio che condividono in tanti, perché stavo proprio notando che molti altri hanno scritto la stessa cosa. Però devo dire che Cecilia, via il fumo dalle spiagge, ha raccolto, vero? Ci sono già segnalazioni che alle e non abbiamo aperto la questione sul posto di lavoro. Mamma mia. Perché anche lì ovviamente chi si allontana, chi esce anche qua davanti al Sole 24 Ore, succede che troviamo tutti questi gruppetti di persone. D'altra parte il dottor Boffi, vuoi farlo tornare? Gli facciamo dire tutto adesso. Dottor Boffi, in 30 secondi, indicazioni per questo test? Ma sì, perché comunque, ripeto, il fumatore per me non va criminalizzato, va aiutato, e magari anche facendo diagnosi precoce, perché no? Prevenzione e diagnosi precoce non fanno a pugni. Noi cerchiamo con l'attacca spirale, ma anche e soprattutto con un test genetico che cerca i microRNA, i cosiddetti mRNA, di identificare precocemente un tumore che potrebbe nascere entro 2-3 anni, e quindi con un semplice prelievo del sangue capire se ha senso continuare a fare TAC a questi forti fumatori, perché stiamo parlando di persone che fumano un pacchetto al giorno da almeno 30 anni e che hanno più di 50 anni, oppure se basta ripetere una TAC solo ogni 3 anni. Ok, è disponibile in tutti gli ospedali? È gratuito, è un multicentrico, è coordinato dalla nostra chirurgia toracica e l'unità di genetica, quindi il dottor Pastorino e la dottoressa Sozzi, però l'iscrizione è gratuita, c'è un numero verde, se vuole glielo posso dare. Certo, noi lo mettiamo in cui ci si può arruolare volontariamente. Assolutamente, va bene. 800-213-601, il progetto si chiama BioMild. BioMild, scritto come si pronuncia. Esatto. Tutte le informazioni sulla pagina di Cuore Denari, dottor Boffi, a prestissimo. Vi posso leggere il messaggio di Giuseppe, sai quello che ti ho letto prima con la mail? Sì. Giuseppe ha la sua ricetta per smettere di fumare, molto semplice ed è senza costi, basta fare una settimana di volontariato in reparto dal professor Boffi, risultato garantito. Io ho smesso a Natale del 1998, per me quella è la vera data della mia nascita, buon lavoro a tutti. E anche noi salutiamo Giuseppe, naturalmente. Grazie a Giuseppe che ci ha mandato una mail. Dottor Boffi, lei quando esce di qui come si sente? Bene, io sto benissimo, a parte la tettoia dove si fuma davanti a Radio 24. Dovremo misurarlo anche lì, dai. Va bene, grazie dottor Boffi, buona giornata. Grazie molte. A voi. E allora, adesso che abbiamo argomento, spendiamo invece che spendere i soldi per le sigarette, li spendiamo, tanto adesso possiamo spendere di più. Come no, adesso apriamo un altro bel dibattito, io mi auguro che susciti lo stesso interesse del fumo, però a giudicare dalle prime battute e da quello anche che è successo ieri, perché poi anche Sebastiano Barisoni con Focus Economia se n'è occupato Oscar Giannino, questa mattina ci sono ritornati un po' più o meno con questo argomento, con Alessandro Milan. Insomma, il tema è questo che ha lanciato ieri il premier Matteo Renzi dai microfoni di una radio concorrente, ma noi abbiamo ripescato il suo contributo lo stesso. Il prossimo anno una delle cose che noi proporremo al Parlamento sarà quella di riportare i livelli del contante alla media europea. In Italia oggi non si può spendere più di 1.000 euro, 999 euro negli alberghi, nei ristoranti e dintorni se non attraverso, diciamo, se, con il contante. E questo accade, fa sì che alcuni ricconi che vengono da mezzo mondo portino questi soldi magari in Francia, dove il limite è a 3.000 euro, o in Germania, dove non c'è proprio. È un piccolo gesto che vuole incoraggiare di nuovo i consumi. Una novità che potrebbe rilanciare i consumi, anche se va detto che i turisti pronti a spendere, di cui parla anche Renzi, a me peraltro qualche giorno fa mi è capitato di imbattermi in questa coppia di russi in un negozio di articoli sportivi di Milano, che per fare un acquisto anche abbastanza consistente effettivamente hanno tirato fuori dalle tasche questo pacchetto di banconote da 50 euro e ne hanno lasciate lì un bel po', per la gioia ovviamente del negoziato. Però ecco, quello che volevo dire è che questi turisti godono già di una deroga in Italia. I turisti stranieri extracomunitari in particolar modo possono già pagare in contanti fino a 15.000 euro, perché era già un tema che ci eravamo posti in passato. Allora, oggi il limite massimo per le transazioni in contanti in Italia, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte proprio qui a Cuore Denari, è di 999,99 euro, quindi poco sotto i 1.000. Siamo già considerati in Europa uno dei paesi più rigidi, più severi con questi limiti, insieme al Portogallo. Nell'Unione Europea ben 11 paesi non ne prevedono alcun limite all'uso del contante. Renzi ha parlato della Francia, su questo errore che ha fatto lo hanno preso in giro in molti, perché la Francia, a cui ha paragonato il nostro sistema, aveva già una soglia di utilizzo del contante di 3.000 euro, aveva una soglia di 3.000 euro, con un provvedimento restrittivo di quest'estate entrato in vigore il 1 settembre, l'ha ridotta a 1.000. Il limite spagnolo è di 2.005, il limite greco è di 1.005, ma dopo aver fatto tutti questi paragoni, soffermiamoci sull'Italia. Non sappiamo ancora come si concretizzerà nella legge di stabilità questa nuova misura di aumento del tetto. Oggi però, come ci dobbiamo comportare con il contante? Ritorniamo a spiegare un po' l'ABC delle transazioni finanziarie cash. Perché mi viene da sorridere, perché prima di tutto bisogna averlo, cioè prima di porsi questa... Però giustamente, certo, sì, effettivamente dover andare a fare un acquistone da 1.000 euro è il portafoglio proprio... da 15.000 euro del russo, come deve essere. Mamma mia, guarda, non aspettano altri negozianti. Allora, intanto ritorniamo appunto su che cosa rischia chi non rispetta nelle transazioni i limiti che sono ora in vigore. Nicola Forte, il nostro esperto di temi fiscali e tributari, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a Deborah, buongiorno a Nicoletta. Buongiorno, anche lui è una nostra colonna. Portante direi, è presente le travi portanti delle case, no? Ecco, sì. Nicola Forte è uno di questi. E allora potete fruire di questa nostra colonna chiamandoci all'800 24 00 24, per esprimerci, a parte il vostro commento su questa novità, ma soprattutto per raccontarci intanto come vi comportate con il contante, perché siete ancora tanto affezionati a banconote e monete, perché fate fatica a modificare le vostre abitudini d'acquisto utilizzando bancomat e carta di credito. Qual è il vostro pensiero sul tema della tracciabilità, perché poi la questione è fondamentalmente questa ed è stata posta ieri anche dal Presidente del Consiglio. Dottor Forte, allora andiamo subito alle novità che arriveranno sulle transazioni finanziarie pagate con il contante. Prima di ipotizzare quello che ha in mente Matteo Renzi e come tradurrà questo aumento del contante, appunto, che questo aumento della soglia di cui stiamo parlando dall'inizio della trasmissione, ricordiamo che questo tema è stato più volte rivisitato dalla legge, no? Ci vuole ricordare i passaggi legislativi più rilevanti degli ultimi anni? Allora, l'ultimissimo passaggio è quello che riguarda appunto al Consiglio dei Ministri presieduto da Monti. Il limite prima era 2005 ed è poi stato ridotto, appunto, dicevamo, a 999,99 euro. Però in realtà nel corso degli anni appunto c'è stato un vero e proprio valzer del limite. Inizialmente si partiva da 12.500 euro, poi si è scesi a 5.000, si è tornati a 12.000 e 5.000, ancora 2.500, oggi siamo a 1000 euro. Sa che cosa stavo pensando, dottor Forte? Che poi adesso questa novità verrà introdotta nella legge di stabilità. La vecchia legge finanziaria oggi si chiama manovra di stabilità, dove all'interno fanno finire sempre provvedimenti che vanno a modificare qualcosa di precedente. Non c'è mai niente di stabile. Altro che legge di stabilità. Adesso mi scusi, forse è una battuta che non fa ridere nessuno, però veramente no, stavo pensando anche a temi importanti. Vabbè, detto questo, dai 12.500, 5.000, 12.500, poi le ultime? L'ultimo passaggio è decreto Monti da 2005 a 1000. E questa era la soglia che si riteneva ormai non più superabile, invece ci si ritorna. Lei che cosa ne pensa, un po' come esperto di questi argomenti, di questa novità, adesso a prescindere dall'intento di come dire, ridare un altro po' di fiato ai consumi e quant'altro, ma sul tema dell'evasione, per esempio, che è quello che scalda molto di più chi entra nel dibattito in questo momento? Ma diciamo che oggi in realtà il sistema per controllare e monitorare questi comportamenti illegittimi, illeciti, gli strumenti sono tanti, i dati presenti nell'anagrafe tributaria sono tanti, le banche fanno una serie di comunicazioni, comunicano chi è titolare di un conto corrente, quindi le limitazioni all'uso del contante sì, possono essere una buona misura, ma che è una misura che in qualche modo determina un effetto finale positivo nel senso di contrasto all'evasione insieme a tutte le altre misure. Solo limitare la circolazione del contante non avrebbe di fatto questo effetto. Questo allora, ad oggi ogni acquisto non può essere pagato in contanti per una cifra superiore ai 1000 euro, no? E molti naturalmente cominciano a dire, ma insomma è un falso problema. Massimo da Vicenza ricorda chi deve spendere, dice, più di 1000 euro si fa fare due scontrini da massimo 999 euro ciascuno, ma insomma proprio lo spezzettamento, il frazionamento del pagamento, dottor Forte, sì, magari qualcuno proverà anche a farlo, ma insomma se viene pizzicato non è che sia proprio una prassi, no, non è corretto, ma questo lo dice la legge stessa, il cosiddetto frazionamento dell'operazione, cioè se io spezzetto l'operazione al solo fine di eludere questo limite, in realtà di fatto sto violando la norma. Ovviamente in concreto non è facile capire quando sto frazionando, allora devo andare a vedere l'operazione, esatto. Devo andare a vedere la prassi commerciale. Faccio un esempio in concreto: se io acquisto una lampada e per bloccare questa lampada pago una somma in contanti di 400 euro ma non ritiro la lampada, torno nel negozio successivamente, qualche giorno dopo pago il resto in contanti, complessivamente supera i 999 euro, ma non ho frazionato per eludere il limite, ho pagato la prima parte in contanti solo per bloccare l'ordine. Viceversa, se io vado al negozio, ritiro la lampada, però faccio un primo pagamento in contanti di 300, poi torno il giorno dopo e pago 800, è evidente che il comportamento è discutibile, è contestabile, però voglio dire, chi lo va a contestare e soprattutto chi rischia che cosa in questo caso? L'esercente che ha consentito di fare un pagamento di questo tipo oppure l'acquirente che ha fatto un pagamento frazionando in due giornate? La sanzione la rischiano tutti e due i soggetti, nel senso, questo è stato chiarito, la sanzione, l'erogazione di una sanzione che poi è variabile, va dall'1 al 40%, è a carico sia del soggetto che ha incassato sia del soggetto che ha pagato. Chi sono i controllori e come si controlla? Guardia di Finanza, Agenzia dell'Entrata, ma i commercialisti, perché evidentemente quel rivenditore avrà un commercialista che effettuerà le registrazioni contabili, aggiornerà la contabilità, il commercialista, il consulente del lavoro, altri professionisti che nell'esercizio della loro attività riscontrassero pagamenti in contanti oltre soglia, devono comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze, se no rischiano una sanzione diretta impropria. Tra l'altro adesso dobbiamo andare a fare la borsa, volevo leggere anche un altro messaggio di un altro ascoltatore che puntualizza quanto dicevo prima sulla possibilità che è data la deroga che è consentita a turisti stranieri extracomunitari di effettuare pagamenti in contanti per soglie ben più alti, ma dicono devono dare in queste transazioni i loro dati personali, aspetto che non è molto gradito loro. Dottor Forte ce lo conferma, quindi non è che arriva appunto lo straniero con tutto questo contante in tasca, fa tutti i pagamenti che vuole in contanti, gli viene chiesto un piccolo adempimento. Certo, conferma, è proprio una forma di controllo, nel senso che il commerciante deve effettivamente verificare che è un cittadino appunto extra o extra comunitario, perché riguarda solo quei cittadini che sono peraltro residenti all'estero, quindi dovrà presentare una copia di un documento, il commerciante ne acquisirà una copia, ma non solo, il commerciante dovrebbe aver comunicato preventivamente all'Agenzia delle Entrate gli estremi di un conto corrente su cui affluiranno quelle somme di denaro superiori che hanno superato la soglia di 999,99 euro, e quindi ho tutta una serie di adempimenti perché c'è un controllo di queste somme che, essendo superiori al limite naturale, devono essere particolarmente attenzionate. Allora, questo argomento vedo che sta facendo una bella concorrenza, sì, quel del fumo, per cui ci fa piacere. Abbiamo due ascoltatori pronti, intanto possiamo salutarli. Salutiamo Fausto che ci chiama da Pescara e Gabriella da Cagliari. Andiamo a sentire che cosa sta succedendo sui mercati. Ma mi sbrigo, così torniamo subito. A gran voce. Esatto. Segnaliamolo. Infatti. Esatto. E poi ritorniamo a spendere un po' di soldini. State ascoltando un programma offerto da... Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Cuore e denari. Una monetina a te, una te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre. Quante monetine servono per fare 1000 euro? Addirittura 3000, Nicoletta. Una montagnona. Ma mi sembra tipo quelle di Paperon dei Paperoni, sai, dove faceva i tuffi, no? Esatto. Allora, non parliamo proprio di monetine, appunto, ma di qualcosa di più. In quest'ultima parte di Cuore e Denari parliamo di contanti, di pagamenti, transazioni in cash, come molti di voi sapranno, perché nelle ultime ore vi abbiamo letteralmente sfinito su questo argomento. C'è un limite oltre il quale queste transazioni sono vietate, ora è di 1000 euro, ma Matteo Renzi vorrebbe alzarlo a 3000, vuole farlo intervenendo con la legge di stabilità che è proprio in procinto di essere varata dal governo. Allora, noi oggi abbiamo colto l'occasione per commentare insieme a voi questo tema, per ricordarvi quali sono le attuali regole alle quali ci dobbiamo attenere per ovviamente non rischiare di prendere delle sanzioni. Lo stiamo facendo con Nicola Forte, consulente tributario esperto per il Sole 24 Ore, ma ci ha raggiunto anche un altro ospite che di questo tema sa molto, Geronimo Emili, che è presidente di Cashless Way. Questa è un'associazione che è nata proprio per diffondere la cultura digitale dei pagamenti, un'organizzazione che sostiene e promuove l'utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante. È una, come dire, vocazione che però non molti italiani hanno. Dottore Emili, buongiorno e ben ritrovato a Cuore Denari. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, intanto ricordo ancora il numero verde al quale i nostri ascoltatori possono intervenire, 800 24 00 24, anche per condividere con noi tutte quelle situazioni in cui non avete chiaro se l'uso del contante che state facendo è corretto oppure no, perché ci sono per esempio molti pensionati che ci stanno scrivendo e che vanno a ritirare la loro piccola pensioncina in contanti, e allora qualche volta magari questo limite viene superato, possono prenderlo, possono ritirarlo o meno, un tema molto, molto caldo che ci sta molto a cuore quando si tratta appunto dei nostri amici pensionati. Però Emili, volevo partire con lei commentando un altro passaggio dell'intervista di ieri di Matteo Renzi, che la faccio sentire. Attraverso gli strumenti dell'Information Communication Technology e gli strumenti informatici, tu recuperi molto più evasione di quella che recuperi giocando a cane e gatto sulle strade. E allora non andiamo alla politica del terrore. Se uno ha la possibilità di spendere dei soldi fino a un massimo di 3000 euro, lo faccia. Ovviamente sarà tutto tracciato. Perché? Perché nel momento in cui li spende nell'albergo, nel ristorante, nel negozio, è chiaro che questi denari entrano nel circuito del controllo e della tracciabilità. Allora, dottore Emili, la convincono queste parole di Matteo Renzi? La soglia contanti a 1000 euro era solo politica del terrore. Se gli strumenti di tracciabilità agiscono su altri fronti, perché si era scelto di abbassarle? Perché voi guardavate con favore a questa soglia dei 1000 euro? Ma da un punto, guardiamo da due punti di vista. Da un punto di vista collettivo, il motivo per cui noi ci battiamo è che il contante è molto costoso e alimenta comportamenti pericolosi. se invece ci facciamo riferimento diciamo più all'individuo, più al consumatore, sosteniamo, continuiamo a sostenere questa linea perché ci sono elementi evidenti: il cash è scomodo, il contante è scomodo, è falsificabile, lo puoi perdere, si deteriora, è sporco. Ma lo usi come vuoi, dicono gli ascoltatori, non devi giustificarti con nessuno dell'utilizzo che ne fai, mentre appunto con la carta di credito, con il bancomat, tutti sanno, possono risalire alle tue abitudini di spesa e di consumo, ed è una cosa che è proprio inaccettabile per molti italiani, questa cosa non... Vabbè. Ho capito, ma da questo punto di vista noi come possiamo rispondere? Perché qui se lei mi dice questo, io rispondo che allora non c'è nessuna ragione razionale né legale per preferire il cash alla moneta elettronica. Però se vogliamo anche rispondere dando qualche numero, così cominciamo comunque a dare delle dimensioni, ripeto, l'83% delle transazioni in Italia sono fatte in contanti, l'83% dico, e il numero sale al 90% se facciamo riferimento solo alle operazioni presso gli esercenti al dettaglio. Questo significa che l'Italia deve sostenere un costo di gestione del contante che è di circa 8 miliardi di euro l'anno, che è mezzo punto di PIL, contro una media europea dello 0,4, che non ha senso. Certo. Senta, lei lo sa, ha citato adesso i piccoli esercenti, sa bene che molto spesso le transazioni con la moneta elettronica sono un po' ostacolate proprio dal mondo del commercio, perché spiega ai propri clienti che queste transazioni per loro sono costose, ed è anche vero nella gran parte dei casi. Effettivamente ci sono degli oneri che, se fossero abbattute, magari sì che quelli faciliterebbero un po' di più l'utilizzo dello strumento elettronico di pagamento. Allora, voi da questo punto di vista avete condotto delle battaglie, delle campagne di sensibilizzazione, perché non riescono a prendere maggior piede, dottore Mili? Ma infatti è anche per questo motivo che trovo, come dire, abbastanza strana l'uscita di Renzi. Tra pochi giorni, entro fine dell'anno, le commissioni interbancarie, cioè le commissioni che l'esercente deve sostenere ogni volta che c'è una transazione con la carta, saranno abbassate, e questa è una normativa, un quadro normativo europeo che va solo a vantaggio degli esercenti. Di conseguenza la scusa del costo della moneta elettronica non ha più senso, neanche in questo caso. Consideriamo anche il fatto che tutti i contanti che un esercente deve incassare, preferisce incassare, poi li dovrebbe prendere e portarli in banca. Questo ha un costo in termini di tempo, di pericolosità, eccetera, eccetera. Quando invece, accettando transazioni con la moneta elettronica, che ripeto oggi sono ancora più economiche, per esempio con il bancomat che costa davvero poco, non avrebbe questo tipo di scomodità. Allora, qua parliamo pure Alice, ed Ellen Kessler, Gabriella da buongiorno. Cagliari. Avevo evocato i pensionati, e quindi Gabriella subito si è fatta sentire. Pronto, sono Gabriella. Allora, buona parte dell'interlocutore precedente non condivido niente. E comunque io cerco di parlare svelta, perché voglio dire la mia. Come vi ho detto, sono un'ex bancaria in pensione da 10 anni. Allora, e devo ribadire che i pensionati, quelli che non sanno niente di banca o che cosa, subiscono tanti di quei disagi che questo signore non sa neanche che disagi provano. Per esempio, Gabriella, adesso qual è? Per esempio, dover usare la carta, e premetto che io la carta del bancomat non la uso, e oltretutto ce l'ho gratuita, perché arriva, io faccio la spunta quando usavo il bancomat, facevo la spunta operazione per operazione, conservazione di scontrini, eccetera, non le dico il cartaceo bancario. E questo doveva nascere per eliminare il cartaceo. Allora, Gabriella, abbiamo capito. Devo dire, è probabile che nel suo pensiero si ritrovino in molti. Ci sono molte resistenze mentali a questo passaggio, che è un vero e proprio passaggio culturale. Io dico che certamente magari fra 20 anni avremo una rivoluzione digitale che permetterà a tutti di guardare con un po' meno sospetto a questo mondo del digitale. È però una fase di transizione che, come per tanti altri ambiti, va vissuta con anche tutte le difficoltà. Effettivamente però la platea, Emili, ritorno da lei perché so che voi la monitorate, dei bancarizzati con difficoltà ci sono, così come di quelli che utilizzano ancora con grande sospetto la moneta elettronica, appunto, di pagamento, come Gabriella, perché non fanno, non riescono a tenere il controllo delle proprie spese, insomma ci sono resistenze che non hanno nulla a che fare con le questioni. Non vuoi essere tracciato, anche molti scrivono. Esatto, Gabriella parla di un'altra difficoltà, però poi anche quello di non voler essere tracciati come quelli che non passano al telepass in autostrada e non pagano con la carta di credito e stanno 3 ore a fare la fila il 20 agosto tornando dalle vacanze, preferiscono far quello piuttosto che pagare con il bancomat. Emili, come lo leggiamo questo fenomeno? Ci sono tanti aspetti qui. Allora, quello della privacy, quello della comodità e quello della resistenza culturale. Privacy, noi voglio dire, la privacy è un diritto costituzionale, figuriamoci se andiamo a come dire, a forzare questo tipo di aspetto. Mi chiedo, da chi vuoi proteggere la tua privacy? Dalla moglie, dai figli, dall'amante o dallo Stato? Perché nel secondo caso il nostro interesse viene un po' meno. Però insomma è un aspetto molto delicato. Quello invece della comodità, esistono oggi, con tutto rispetto per l'interlocutrice di prima, comunque oggi le cose sono molto cambiate, perché esistono strumenti che ti permettono di avere le spese in tempo reale, per esempio sul telefonino ti dice esattamente quanto stai spendendo, in che modo lo stai spendendo, in quale, che tipologia di acquisti stai facendo, che anzi ti rendono la vita molto più comoda e facile. Le leggo intanto anche il messaggio di Patrick, che mi ha fatto anche sorridere un po' tenerezza. Dovendo comprare un regalo per la moglie dal valore sopra 1.000 euro, ho dovuto pagarlo in nero per evitare di farle sapere quanto speso. Il limite al contante favorisce il nero. Patrick, adesso, se sua moglie voleva risalire a quanto lei aveva speso, le posso assicurare che una donna non aspetta certo l'estratto conto per verificare quanto lei ha speso, perché trova altre alternative, c'è internet, non lo so, adesso non voglio dare dei suggerimenti. Patrick, adesso che addirittura per far sapere alla moglie quanto ha speso lo paga in nero, Patrick, no, io qui non ci sto. Però tu che dici? Allora, io non, guarda, io direi che tu hai dato dei suggerimenti fantastici, voglio ricordarlo, in Donne di Denari. Questi sono di cattivo gusto, cioè andare a cercare di scoprire quanto ha speso il tuo compagno per farti un regalo è una cosa di cattivo gusto. Quello che volevo dire a Patrick è che se la moglie voleva scoprirlo non aspettava l'estratto conto, quindi non è una scusa per pagare in nero. Però punto. Io da donna di cuore dico a Patrick che si è fatto il regalo a sua moglie. Ha speso bene. Poco, poteva spendere di più. Adesso guarda un po' Carmelo, che di regali lui non ce ne fa mai. No, guarda, sempre lì solo a bacchettarci perché siamo in ritardo. Adesso le informazioni sul traffico, così Carmelo è contento. Andiamo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Cuore e denari. Come money, perché tu puoi spendere nei giorni che vuoi. Ultima parte della nostra pagina di denari, ma dobbiamo distinguere denaro in contanti oppure pagamenti elettronici e tracciabili. Questo è il dilemma: quando non si può pagare in contanti una certa cifra, oltre quale limite? Il limite verrà probabilmente aumentato, come ha promesso Matteo Renzi con la legge di stabilità, a 3.000 euro. 800 24 00 24, il dibattito sull'argomento è quasi pari a quello sul fumo. Tantissime telefonate stamattina. Noi siamo con Nicola Forte, nostro consulente fiscale esperto di questi temi per il Sole 24 Ore, Geronimo Emili, presidente di Cashless Way, che ho brutalmente interrotto prima. Lei con i regali con sua moglie come si comporta? Io li faccio, come vuole che le dica, io uso sempre gli strumenti di pagamento digitale, sempre, comunque, anche per il caffè. Anche per il caffè, ma ce la faccio, ma come fa? Ecco, cioè, a me no, quando adesso non mi dica che è molto piccolo, spesso dicono, Ma certo che non ce la faccio sempre, è ovvio che molto spesso sono costretto a usare la moneta elettronica, però però ecco, una cosa che ho imparato a fare è non lasciarmi condizionare da commerciante che storce il naso, cosa che molto spesso accade. Ieri sera sono tornato da Milano in aereo e all'aeroporto ho dovuto saltare 10 taxi perché nessuno aveva la carta. aveva la a Milano. Ieri proprio Sebastiano Barisoli ne parlava, ha raccontato della sua esperienza in Campania qualche giorno fa, facendo il paragone. Vabbè, in Campania non nessuno neanche a pensarci ti mette a disposizione il POS appunto per fare il pagamento con bancomat o carta nel taxi, e Sebastiano diceva a Milano quasi tutti lo consentono, io su quelli su cui salgo non me lo consente nessuno, per cui adesso mannaggia me che vediamo un po' a Roma adesso, oggi pomeriggio devo andare, vediamo che cosa succede, però è molto difficile adesso Milano. Però provate a chiedere a un tassista perché non ha il POS, e bofonchiano delle scuse che non hanno senso. Va bene, lo chiediamo. Guardi che dottor Emili, noi abbiamo molti amici taxisti che ci seguono e che voglio salutare, perché tutte le volte che saliamo in taxi ci riconoscono, ci fanno i complimenti, e questo ci piace. Alcuni non vorrei ci che ci lasciassero fuori adesso con alcuni questi ci commenti. Bacchettano, mi raccomando Deborah, oggi viene da voi, trattatemela bene, appello ai taxisti romani che possono naturalmente intervenire e provare a rispondere, no, alla provocazione del dottor Emili all'800 24 00 24. Magari potrebbero fare delle iniziative, delle proposte, delle... Esatto, infatti. Allora, meno commissioni per tutti, e qua dovrebbe intervenire in maniera molto forte tutto il sistema bancario, magari con un'auto iniziativa di autodisciplina. Fausto da Pescara, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Niente, io credo che l'unica promessa che sta facendo, cioè l'unica cosa buona che sta facendo il nostro Pinocchio nazionale è proprio questa cosa di riportare il contante al limite dei 3.000 euro. Lei, da che, lei è un commerciante, è un esercente, sì, Fausto? Sono un piccolo imprenditore commerciante. Però noi abbiamo tantissime difficoltà con questa storia dei 1.000 euro, quindi... Vabbè, perché magari lei opera in un settore in cui una transazione supera facilmente questa cifra, Fausto, supera, per i piccoli. Sicuramente, sicuramente supera di molto le 1.000 euro. Quindi, ma lei che fa, scusi, perché... Fausto? Mi ha fatto venire un po' la curiosità, posso chiederglielo? Ho un piccolo commercio all'ingrosso di carni, quindi diciamo e quindi quando viene magari un marcellaio da lei deve fare un acquisto appunto, abbastanza rilevante. C'è da dire anche un'altra cosa che magari molti non sanno, comunque fanno finta di non sapere. Sa quante piccole attività sono in difficoltà che non hanno appunto la carta di credito, non hanno i blocchetti degli assegni, quindi come fanno a muoversi? Cioè, hanno la necessità di pagare per contanti, quindi... È vero, Fausto, però prima o poi anche questo mondo un pochino a galla deve venire. Adesso le difficoltà riconducibili un po' anche alla crisi economica che è stata devastante negli ultimi anni, le possiamo comprendere, speriamo che finiscano presto, però non è che può sempre questo costituire una giustificazione per tutto, perché qua c'è chi si come dire, comporta in maniera integerrima, chi invece poi con la scusa della crisi fa sempre un po' quello che vuole. Non vorrei aver fatto un commento qualunquista, però anche lì insomma dovremmo aprire un altro dibattito che durerebbe da qui a stasera alle 10. Prossime puntate, dai. Esatto, volevo sentire un attimo ancora Nicola Forte, che abbiamo abbandonato nel blocco precedente, sui limiti attualmente in vigore sulle transazioni col cash. Forte, abbiamo detto tutto, ci sono degli aspetti che non abbiamo ricordato, aspetti che poi probabilmente verranno rimodificati nuovamente appunto con le misure contenute in legge di stabilità, ma altre raccomandazioni da fare ai nostri ascoltatori ne abbiamo? Ma diciamo, raccomandazione che è irrilevante la causa per cui io trasferisco il denaro, cioè può trattarsi di un acquisto presso un commerciante, può trattarsi di una prestazione professionale, può trattarsi anche di una donazione. Quindi se io do del denaro, che è semplicemente una liberalità, una donazione a mio fratello, mio cugino, un figlio, anche in questo caso purtroppo devo fare attenzione a rispettare il limite, proprio perché si prescinde dalla ragione per cui il denaro viene trasferito. Detto che io la sua considerazione sul tema dell'aumento della soglia per l'utilizzo delle contatte la conosco, Nicola Forte, ma comunque un aspetto positivo eventualmente di questa novità, lei proprio come consulente nel settore tributario e fiscale non lo vede? No, diciamo che secondo me è più un effetto positivo sotto il profilo psicologico, no? Perché si ha meno la sensazione di essere controllati. Francamente, tra 999 euro e 99 euro e 3.000 euro non abbiamo una grandissima differenza. Francamente non ritengo che ci sia il concreto rischio di non contrastare a sufficienza l'evasione per il solo fatto che l'aumento è di circa 2.000 euro. Penso che però il beneficio possa essere soprattutto di tipo mentale, psicologico, ma ritengo difficile che in passato allo stesso modo i consumi fossero frenati perché c'era questo limite. Chi voleva acquistare, acquistava. Ciao. Intanto un ascoltatore ci raccontava che ha pagato in un negozio 1450 euro in contanti, mi hanno chiesto i documenti, che rischio posso correre, se ha fornito i documenti credo che sia a posto, non so se fosse cittadino extracomunitario. Ugo dalla provincia di Vercelli, che non riusciamo a far intervenire, voleva raccontarci che è un rappresentante, ha incassi da fare giornalmente, se un suo cliente non può fornirgli tutti il contante perché supera il limite, per lui è un danno. Torneremo su questo argomento non appena il provvedimento ci sarà. Grazie intanto a Geronimo Emilia.